arrivato l'inverno. Che grande novità. Dio, quanto freddo, chissà cosa comporterà. Tanti scompigli, si bloccheranno le città. Per la neve sui cigli, e al TG se ne parlerà.